Che avanti. Ciao Roberto, chi sei? Chi sei? Non ho capito chi. Fabio, cos'era? No, no, ma è nominativo, non ho capito. Ah, Roberto, dove ti trovi? Ah, ci sono sentite le altre volte, sì, scusa, non ti avevo riconosciuto. Ah, perché il segnale era un po' più basso del solito, 6-8 qua di segnale, la radio siamo a 3-4. No, no, adesso ti ho ascoltato bene, naturalmente c'era qualche scarica di QRM che pure un pochettino ti ha attenuato, dai. Adesso sei più di 8 abbondante, dai, se ti ascolto. Ok, c'è qualche dato su questo canale? Vabbè, ciao Antonello, ma dov'è il controllo? Antonello, il segnale c'è 9+30, però la radio non è bella. Com'è? Sei saturo. Sono saturo. Buono, non so cosa sta usando. Prova di nuovo, mettiti un po' più lontano dal microfono. 2, 3, 4, 5, 6. È troppo chiusa, troppo barattolosa. Ho un barattolo di quelli nuovi, come quello della Talino. Quindi è metalli, sarà? No, ecco, molto chiusa come modulazione. Sembra che stai parlando con il naso tappato. Ma che sto parlando con il naso tappato? Ma ti stai aiutando o sei pulito? Pulito, è una parecchia nuovo quello che ho fatto a vibrare. No, no, non sta uscendo bene, la radio va male, Antonio. Hai sentito Antonio e Roberto D'Alghero? Sì, aspetta un attimo. Ecco, mi ascolto tu poi. Allora, aspetta un attimo. Non più di tanto, Antonello. Ma scusa un attimino, è il microfono originale della radio? Esatto, sì, il microfono originale della radio, sì. Quindi, figurati tu. Quindi, allora, così fa schifo. Invece così è leggermente più chiara. Guarda un po'. È un po' più chiara però, Antonello, ma niente di più, non è un granché. Anche la taglia esce così, anzi usciva così con questa malattia qua. È il tipo della capsula, capito che monta. Bisogna cambiare la capsula, bisogna cambiare del microfono sul originale. Comunque va meglio, perché c'è un effetto tipo strano, non capisco perché. Aspettiamo un attimo. Quindi così è. Vabbè, così come è originale, scusate che la temperatura. Perché così, invece facendo così non è cambiato un tubo, così è più chiara o meno. No, Antonio, è gracchiante, sembra quando sei sottoalimentato un microfono, qualcosa del genere, qualche cosa, come ha detto l'altro Roberto, di impedenza, non c'è l'abbinamento giusto, sai, sembra quando la voce è troppo compressa, a parte che è chiusa la modulazione, sei molto ristretta, non è larga, però è brutta. Ho capito, vabbè, la rimetto così, questa è la tratta sul originale della fabbrica, quindi, vabbè, l'unica cosa che ci sia sono cose della piglia in culo. Così non è cambiato nulla. Aspetta. Guarda un po' su, picchio. Allora. Ecco qua, così. Non cambia nulla, ma è tipo dell'apparecchio, non ci possiamo fare nulla. Ma non credo che sia solo problema di apparato, guarda che non so, magari la capsula che magari è lesionata, non lo so, magari si è rovesciata, non è appoggiata bene qualcosa dentro, all'interno del corpo. Non lo so, io la verità, non lo so. L'effetto di un altoparlante è controfase, cioè come quando tu stai schiacciando un altoparlante e non gli permetti di uscire la base mobile, dai. La stessa cosa, sembra che sia strozzato, che lo stai bloccando. Secondo me apri dentro, ma quel coso l'ha toccato Natalino, quella capsula microfonica. Io per quanto ne so io lui l'aveva aperto il microfono. Sì, l'ha aperto, infatti. C'è una fase. Questa è la capsula. prova e la ragazza sta pensando più tempo. E fai prima, non sai mai perdere tempo, metti una, il problema come ha detto Roberto, probabilmente l'impedenza di quella di quel coso non è adatta, o è troppo alta e lo sta strozzando. Sì, senz'altro sarà così. Anche la famiglia usciva così quando acceso il manatino. Secondo lei il consiglio Polman. Ora. Allora ce n'è un altro di microfono così non sta a perdere tempo. Ok, riprendi dalla Roberto. Un attimino. No, l'apparato non credo che l'abbia toccato perché è nuovo e omologato. Per quanto ho capito io ha messo una capsula di un citofono, ma non è che puoi mettere una capsula così a casaccio senza sapere le caratteristiche di impedenza, eccetera. E più che altro è quello secondo me il problema. Come hai detto tu, l'impedenza non corrisponde al valore nominale, diciamo, di quell'apparato. Aspetta un attimino Roberto, c'è qualcuno che voleva entrare. Avanti, chi era che chiama? Antonio Bombolo, tu sei? Fabio. Fabio Io no, quando parla questo Fabio non riesco a capire. Sei tu Fabio? Cappa, ma come la vuoi si brutta, Roberto? Io ti ascolto male. Adesso sono riuscito a capire che stavi parlando, perché sembrava un segnale saturo, cioè una modulazione satura. Tu come mi ascolti? Che boh, adesso c'è anche la portante. Che è avanti? Dopo che fa non c'è nessuno. Rientra Fabio, scusa, non ho capito quello che hai detto, hanno messo una portante. Grega, è stato benissimo, Roberto. Avevi pulito anche di furia. Pulito. Ehi, adesso ti ho ascoltato bene anche io, dai, va benissimo. Ok, c'è anche, non so se lo ascolti, Roberto giù ad Alghero e Antonello su la parte alta di Sassari, vicino a noi, diciamo. Avanti Antonello per Fabio. Stava sistemando il microfono. Non so se lo ascolti, a Roberto te lo rilancio. Avanti Roberto per Fabio. Adesso sta salendo giusto. Allora, cosa ti potevo smettere? Ma ci siamo. Forse ti ho parlato sopra Antonio e ho detto Roberto se ascolti a Fabio, credo di no perché arriva basso anche qua da me. E tu Roberto, scusa Fabio, l'hai ascoltata Roberto? No, negativo, sento riuscire a sopra, ho capito che lui sta parlando a volte no. Niente, ripeti Roberto. E adesso ti ha portato appresso un po' di alternata, l'amplificazione va bene, e però c'è un po' di alternata, non so se sia l'alimentatore o qualcosa che ti stai tirando dietro. Sì, ti tirando dietro qualcosa. Registra. Sta montando, adesso sono davanti alla antenna, faccio mezzo pasticcio per adesso. Ok, c'è stato un break, facciamo venire avanti il break. Vabbè, il segnale arrivava anche prima, bene, 9+10, la radio però non è di qualità, è un po' scarsina, un po' troppo satura, la vedo un po' così. C'è anche Alghero, vediamo se lui ti ascolta. Avanti Roberto, se hai ascoltato a Gianni Capri 2 da Muros. Se hai ascoltato Capri a Roberto d'Alghero. Allora, c'è Fabio qua vicino nelle zone mie, e più su c'è anche Antonello Pompugno. Ti rilancio Antonello, sicuramente ti ascolta. Avanti Antonello, vabbè, stava si trovando il microfono. Fabio, l'hai ascoltato a Capri da Muros? Sì, arriva bene. Ma io gli ascolti i Capri 2. Ok, meglio così, dai. Le antenne, diciamo, molte volte hanno delle cose che è inspiegabile. Bisogna sempre controllare tutte le connessioni, perché di per sé l'antenna non c'è niente di usurabile, sono più che altro le connessioni da verificare, tutte le giunzioni dove attaccano i piani di massa, eccetera. Ok, vediamo Roberto, se ci sei ancora avanti da Alghero. Lui mi ha detto un po' nascosto verso Alghero, lui è nella piazza di Muros, rimane un po' incassato, diciamo, coperto dalle montagne e con le colline che c'ha davanti, per cui è un po' scomodo, non che non mette potenza su, se no sarà un po' difficile. Già qua a Sassari qualcuno riesce a beccarlo di sfuggita, figurati di Alghero. Ok, tu come mi ascolti di Santiago? Sì, tu Roberto, la radio va bene comunque. Ok, no, diciamo gli massimo che per Alghero già sono abbastanza aperto, non ho grossi problemi. Ok, vediamo di nuovo, facciamo riprendere Antonello se ha sistemato quel microfono, se no riprendi tu Fabio. Avanti Antonello. Ora. No, Antonio, lascia busy, è tutto un rumore, tutto un gracchiamento e basta, non sta andando bene quella roba. Ok, Fabio, riprenditela tu e poi vediamo Capri, facciamo riprendere a Capri. Antonio, ma il microfono originale dell'Ozetta è quello? Sì, il microfono già dell'Ozetta. Lascialo così, con la modulazione sua è quella. E quella è la modulazione sua, lascialo così. Questo formaggio è normale che sia così. Poi con un altro microfono vedrai come vola. Stavo cercando le DC ma no, no. Non c'è un cazzo. Non gli fa nulla, no, non gli fa proprio niente. L'altro trim l'ho trovato quello dello Twitter, che l'ho regolato, però è giusto. E sto tranquillo. Ascolta, un po' perché hai preso il microfono originale dell'M340 del 1980, c'hai quella radio lì? Sì, lo conosco, già, ma quello ci metto. Adesso posso cambiare la capsula, voglio vedere cosa ne conosco fuori, aspetta. Ah, sì, quindi l'altro originale quello, lei. L'originale lascialo, li mettiamo nel 24 poi, li facciamo lo signorino. Prova qualche altro microfono, Antonio, vedi un po', sicuramente è cambiato totalmente. Secondo me con la capsula che hanno messo del Natalino non serve a niente. Ok, Capri, avanti tutta. Fabio, hai sentito, ti ha rilasciato. Ci sono un attimo distratto perché c'ho un ricevitore così, stavo cercando di capire le frequenze, che è un valvolare con una scala analogica, stavo cercando di guardare le frequenze con un digitale. Mi è subito il passaggio di Capri 2. E capa, quello con cui sto parlando è... Guarda, gli ho cambiato la capsula, ho fatto due di martedì, mercoledì a microfoni, ne ho messo foto 4-5. Tutti con problemi allucinanti. Che è meccanico manuale, che allora lo switch a slitta, ogni volta la slitta c'è qualche casino. Quelli con la capsulina per applicati, la capsula o va a calci oppure non va per niente. Insomma, dopo 20 anni si può anche fare, no? La ripoglierò, non mi ascolta, rinascio Roberto, rinascio anche a Ghetto. Ehi, va bene, dai. Ok, Roberto, intervieni tu, dai, stavo parlando di microfoni, purtroppo quando lasci troppo tempo fermi le capsule ci sono delle parti mobili per cui perdono un po' di chiamiamola elasticità, di movimentazione, tendono a incollarsi e col tempo perdono le caratteristiche iniziali. Ok, avanti Roberto. Ok, cosa? Comunque Capri, lo ascolti tu Alghero? No, Antonio non c'è, stavo dicendo Fabio, tu lo ascolti invece Alghero? Dai, Alghero non lo ascolta. Per adesso no, però vedi che rimane un po' da qua, con l'antenna per terra. Bianco per me un attimino, riprendo tra qualche minuto, scusate. Roberto ha fatto un attimo di bianco, l'ha chiesto al volo, per aver avuto qualche cosa da fare rapida. Popugno, attento. A tu ho stato capito. Comunque, ma come tu arrivo di segnale lì? Lo fa. Sì, capa, guarda la capsula che ci avete messo lì, dove vai? Te lo mando su WhatsApp, cazzo. Un altoparlante ce l'ho messo dentro. Ma ora sono quello l'altro. Che diverso da quello l'altro? Io voi ci ho trovato la capsula piccola e quella condensatore. Io invece c'ho l'altoparlante, c'ho. Da 150 ohm ho messo dentro. Non lo so quando ti ho giocato, io non credo, cazzo. Apro il microfono, ci trovo l'altoparlante a 150 ohm, posso ritrovarmi la capsula a condensatore. E ancora faceva schifo di radio. Buttateci tutto, vi sembrate dentro la chiesa. Ciao, classe, dottore, mi hai sentito? Cazzo di cosa, cazzo. Esce a cambiare la capsula, esci. Apro il microfono. Lascia originale il microfono, tutti i dini. Poi facciamo l'altro, poi devo partire, giù il originale per l'apparato. Ciao, Claudio. Ciao Fabio, mi sembri dentro una chiesa. Eia, in chiesa sono andato, non lo sai, mi ascolto. No, sei tutto rimbombante, tutto... Vabbè, vi sto ascoltando, proseguite. Ciao a tutti, buonasera. Capo 2. Ciao Roba. Paio così, sì, credo che ne abbiano. Ho cercato qualcosina di vecchio il mese scorso. Ho visto che si sono aggiornati un po' di magazzino, perciò penso che abbiamo pure queste cose. Ciao Capo 2, buon provincia, ci sentiamo più tardi. Vediamo poi se rimane Antonio e Claudio, perché io Alghero non ci manchi con la tua antenna. Claudio. Non metto più tardi, sto facendo cosa. E allora ci rimane solo Antonio, ci sentiamo dopo. Con lei. Va bene, fammi sapere, ok, dai, sono ancora X, ci sentiamo stasera sul tardi, ciao a tutti. Va bene, vado pronta. Parlando le capsule, ma cambiano le capsule, le capsule, le capsule. Va bene, va bene, nasce così, con questo fatto di microfonino, però poi si mette un'altra cosa e allora esce bene di modulazione, perché non è male la modulazione, è cupa, è bassa, è normale, come guarda, con i microfoni originali degli radio, ti ricordi? Quelli di radio, tutti quelli tipo 34 canali, microfono originale, io ce l'avevo così, uguale nel format. Immaginate tu. Yeah, ma non è male come radio, cioè è una radio semplice, che non c'ha picchi, non c'ha disturbi, non c'ha definizione, non ha rumore di fondo, non c'ha nulla, cioè sì, c'è comprensibile, si capisce bene quello che dici, è una radio banale, se vuoi qualcosa in più, già lo usare. Già lo so, perché c'è un'attaccatura diversa, invece il dato io c'ha un microfono differente, vedi, c'ha quello che condensatore microfonico, c'ha. E ciò vuol dire che gli arriva anche qualcosina lì e ci avrà un transistorino per amplificarlo in qualche maniera, perché se il microfono di tipo capsulina, tipo condensatore, lo vuole in maniera diversa. Ma questo Antonio, qual è il microfono natalino? No, questo barattino guarda quello che è natalino, 30x40, solo che il microfono natalino, quello originale suo, monta la capsula piezoelettrica, quella piccolina condensatore, invece qui ci ho trovato la top andata era 150 ohm, hai capito? Simile a quella, ce l'hai presente la top andata di VHF piccolina, è uguale identica. Sì, ma a Natalino sistema materiale col cazzo di microfono. Adesso glielo sistemo, che gli ha sbagliato i cavetti, capito? Un paio di cavetti ha sbagliato, adesso glielo inserisco di qui e così provo a farglielo. Ma io lascialo stare a Fabio, fai il microfono a Natalino. Io stavo facendo controllando il mio, adesso faccio quello di Natalino, così mi copio i collegamenti e così mi metto le MP4 di qua. Io. Ecco, bravo. Fai il microfono a Natalino, che deve uscire bene. Sì, già lo farò adesso, tanto ce l'ho qua nel salone. Adesso ci metto la batteria, c'è la batteria scarica e provo a fare i collegamenti piano piano. Sì, cos'hai detto Fabio? Che mi faccio un controllo che mi hanno fatto, Santiago 4, Radio 4, ah, così mi piace. E dove? E a Muro. Sì, vabbè. Forse anche colpa sua perché c'è l'antenna ben bassa, l'ha messa in piazza, un casino, quasi 9:20. Guarda, ma questo pranzo, perché mi era meglio questo pranzo con te, che siamo abbastanza vicini, con l'antenna che ho sull'avanzare, insomma, una piazza di amplificatore, questo qui piedini, amplificatore serio, quindi era un vecchio Lenco. Io l'ho messo lì come piano di massa, un pezzo di filo per allungarmi il piano di massa, appena, sono andati a due, sto parlando con te, sono anche arrivato a Muro. E ti ho capito, ma qua sei 9:20, ma vabbè, io ti vedo, siamo vicini, però sei 9:20, ma va bene, sei arrivato a Muro, c'è anche Santenna, è l'ultimo per la truppa. Sì, infatti, Santenna c'è la bellina, è veicolare la bellina, scusa. Adesso quando lo sposterò dall'altra parte, perché bisogna aspettare le carte cartacee del condominio, capito? Come arrivano le carte cartacee del condominio, che ce l'ho chiesto, non potrebbe parlare nessuno, se no poi si mettono a seccare, la sposto dall'altra parte, col capo, tutto, bello bellino, e allora magari riusciamo a parlare anche in maniera diversa. A me mi dispiace molto quando non mi sentono quelli un po' lontani o magari non sento io, cioè diventa un peso per la ruota, capito? Prendo e magari dichiaro QRX per non disturbare, mi dà fastidio. No, questa cosa che uno non sente, l'altro non sente, qui e là, diventa troppo monotono, soprattutto quando si entra in ruota, ma anche a me sta capitando spesso, quello non lo sento, quell'altro non lo sento, non ci posso fare niente. Che si mettano l'antenna sul tetto, cosa vi dico? No, tu stai arrivando benissimo, non c'è problema. Sto arrivando benissimo da te, però per esempio chi ti ha con Alghero, lo facevamo di Alghero, io purtroppo sentivo un fruscio passo passo e lui ci mancherebbe altro che si ascoltare, ma neanche per scherzo. Piuttosto non riesco a cavare i piedi con questo fatto che c'è questo rientro del microfono e se lascio un attimo di spazio lì si mette a fischiare, mi sento che ritorno da un biglietto lì qui dietro e del bruttino, devo sopra e sentire la tele. Ma non hai provato a abbassare appena appena il michigine o l'amplificazione? Sì, sì, tutte le ho provate. Addirittura se tolgo l'eco è peggio, per quello che ho l'eco sotto, capito? L'ho regolato un po' qua, un po' di un po' là, insomma, l'unica regolazione che mi permette di parlare senza avere tutti i fischi o i neschi è questa qui. Deve essere che l'antenna entra nella controreazione dei amplificatori di cavo di operazionali che c'è questo M600. Ah, l'M600 stai usando, è un bel microfono, io ce l'avevo però non lo usavo mai, l'avevo dato. Tanto io uso sempre questa qua, la radio, o questa, o 430, o 140, però uso sempre questo tipo di radio, capito? Quindi non avevo possibilità di collegarlo, l'avevo venduto, l'avevo dato. Va bene, va bene. Ok, aspettiamo se Antonello fa questo microfono a Natalino, poi se esce meglio, perché c'è un segnalone qua, è senza radio, porca miseria. Perché per i tipi moderni, soprattutto i all-in-one, capito? Ce lo prendi così com'è, addirittura hanno lo spinotto per la CDC, gli lo appoggi dietro la sera, ti danno un'antenna già con la calamita, tarata, tutto. Praticamente arrivi in macchina con la scatola, apri il blister con il retro e la chiave della macchina e dopo 3 minuti stai modulando, stazionale non si sa, radio non si sa, canali 40. Fabio, adesso con le nuove leggi è un casino, bisogna usare i baracchini a norma c'è, capito, tutte queste stronzate, io non ho questi problemi comunque. Per chi non è radioamatore è un casino, bisogna usare tutte le cose a norma di legge, noi siamo un po' coperti dal fatto che appunto in fase sperimentale usiamo un po' di tutto, però questa cazzo di legge di merda che è uscita della norma c'è, sta mettendo in ponte un sacco di gente, perché chi ha il baracchino anche nuovo e non è a norma c'è, rischia, capito? Rischia. Soprattutto in questo periodo, mica sono di nuovo all'attacco. I pirati sono nuovamente all'attacco, capito? Perciò penso, uno che ha un apparecchio omologato da sempre, che ha la concessione da sempre, e si trova con un Alan, per dire, con un Intercam, così, non può usarlo, cioè non può farsi la licenza, No, va bene, Natalino li hanno portato via, ho avuto un controllo così di routine, aveva il baracchino omologato, però non era norma c'è, li hanno portato via, hanno messo una multina piccolina, però li hanno fatto via, è un casino, hanno combinato un casino, cazzo, il baracchino era omologato, lasciano omologato, io non capisco, se l'omologazione c'era, cosa norma c'è, non ho tirato fuori queste cose, e quindi per la parte 27, 13 B è così, ripeto, noi non abbiamo grandi problemi, però la banda cittadina è così, devi avere questi baracchini a norma c'è, strumentazione a norma c'è, alimentatore a norma c'è, ma è stronzate. Claudio, con chi stai parlando? Avevo sentito l'altro corrispondente. Ma c'è solo PMR, però non mi rientra in vicenda perché la mia è vecchia, non lo so, ma con l'unica concessione che ho, cioè è normale che possa utilizzare anche i PMR che sono entrati in concessione. No, se è a norma di legge, se praticamente è omologato, sì, non lo so, guarda, io quelle frequenze non... Inizialmente, così giusto per curiosità, ogni tanto entravo, adesso l'ho completamente tolta proprio, avevo dei portatili, però miei amatoriali, io qua di portatili normali, di quelli no, non ne ho, io ho i portatili, quelli amatoriali, quindi ogni tanto attaccavo l'antenna e entravo a salutare a fare adesso. L'ho completamente eliminata con la frequenza lì, non mi interessa, da tanto tempo che non entro, non mi interessa, capito? senti a Marco Condor. Aspetta un attimo, Fabio, che mi ha chiamato mia moglie. Ma va, correggio qua. Antonello, ci sei? Hai fatto? Vabbè, se mi ascolti qua, con un problema un attimino, dici. C'è qualcuno sul canale 10? Sono entrato, Fabio. Oh, Claudio, con chi stavi parlando poco fa? Con Fabio. Perché non lo sento io. Ascolta, il microfono c'è a posto tra. No, non ho messo a posto nulla. L'M93 non lo accetta lo stesso. Ho fatto diventare matto e ce l'ho messo a posto. Poi Fabrizio, era Fabrizio l'MB4, perché dice che c'è qualcosa e me lo sta controllando. Capito, non lo sa più niente. Beh, ma se non c'è la radio, come fa a farlo? Lo schema, non lo so, vabbè, era lui. Fabio, Natalino non ti ascolta, come mai? No, perché Antonello, c'era Antonello che stava facendo il microfono tuo, che microfono stava facendo? M93, siccome ha l'apparato uguale al mio, Antonello, e prova a attaccarlo, a collegarlo lui, quell'M93. Capito? Come gli ho stampato la domanda della concessione e allora glielo ho provo a vedere se riesce a attaccarlo. Ah, l'apparato uguale al mio, gli ho dato lo spinotto e il microfono. M93, che microfono è che M93? Microfono amplificato della ZG al mare, però non è da tavolo. Ah, come quello che c'ha Gianni lo profeta, come quello lì. Non so che apparato c'ha Gianni. Mi sembra che abbia l'M93 Gianni, non lo so. Allora se l'M93 è uguale, a me mi è stato omaggiato da una persona e... Zitto, zitto. Non so, bisogna il baracchino prenderti più difficile di quello, cazzo, con tutti i baracchini che c'era. Potevi prendere il 48, a norma c'è, nuovo. Se allora pigliati due più visciughe. Occhio a paletta. Se serve l'attacco a 4, problemi non ce n'erano. Microfoni ne ho io a 4, anche amplificati da poter inserire. Ma non ti vai a pulirlo anche sul goccio. Come ci vai? Un attimo il break registrato. Cosa vuoi che si dica? Il 48 costa il doppio di questo. Questo qui costa una cavolata ed è omologato. Cosa ne sapevo che c'aveva da fare a 8? Poi io li ho sempre piazzati da tutte le parti gli apparecchi. E in tutti gli apparecchi i microfoni preamplificati. E' questo che non accetta del resto. Posso darti un consiglio? Daccelo, dai. Buonasera. Esiste l'8001 della Midland che ha bande laterali, tutto quanto, e puoi metterci i microfoni che vuoi. L'8001 è omologato e non paghi qualcosa in più, una tariffa, che almeno c'è una parete più semplice. Infatti ho pensato proprio a quell'apparato là. E se non mi prenderò un super star nuovo, cosa vuoi dire? Ehi, avanti! Ciao! Perché? Non l'ho riconosciuto! Avanti, chi sei? Entra, saluta, non si presenta. Va bene, va bene. Sì, Natale, io l'8001 l'ho avuto e... ho avuto anche... sì, l'8001. Era una bellissima radio. Però Superstar io lo preferisco di più. Non so perché. Non so perché, forse ha qualcosa in meno, non so, però una bellissima radio. Bellissima radio. Sì, Natale, a questo punto ha ragione Gianni, fai fuori quello e ti prendi un Superstar, un 8001, un baracchino, insomma, che ti consenta di poterci attaccare qualsiasi cosa, che sia più semplice di quello, insomma, a questo punto. Ma io ce l'ho già pensato, sono già d'accordo con Roberto per l'8001. Perché dice che una persona ce l'ha, vediamo se ce l'ha e se me lo vende e a quanto me lo vende. Non è il miglior superstar, cosa arrivi è che non posso, cioè sono i contanti ma non ho la carta, perché la carta fino a mercoledì non me la ricaricano, che hanno finito la carica di tabacchi. Va bene, avanti già. Ehi, quello c'ha 40 canali per banda, poi se vuoi puoi anche modificarlo, ma te non interessa perché lo devo logato lo sogno, lo puoi fare con un ponticello, li puoi mettere i canali in più, puoi aprire i watt, puoi fare tutto, se quello lì è un apparato completo. Basta che sai uscire come te, cosa deve aprire, basta che esca bene del radio, ti sto dicendo che il segnale di Menattalino Gianni è quanto il tuo, 9+20, è che non c'è radio, c'è l'antenna bassa, è 9+20, cosa gliene frega, lui di radio deve rifare bene. Appunto è quello che stava cercando di fare, ma se non gli permette di mettere nessun microfono con la radio. Cazzo, una cosa uscitana allucinante, cioè io ci ho messo l'MC50 al DAC già, l'MC50 al DAC, come si fa questo baracchino che non riceve nulla, ma si può. Io ho attaccato il turner più 2 all'857 e l'857 c'ha l'attacco tipo telefono, e ha giubilato, l'ha giubilato la prolunga e l'ha già attaccato, ed era una bomba. Ho attaccato il turner più 3 al Saturneco che avevo, cosa ti posso, lo Shure li ho attaccato ed era quello che andava meglio, te lo ricordi? Lo Shure era attaccato al Saturneco. Io sì che me lo ricordo. Certo me lo ricordo, mi via Pasquale io. Me lo ricordo sì. Vabbè, io non ho fatto niente ad DAC perché io ho gli adattatori. Ne ho trovato due che sono ICOM Kenwood e Kenwood ICOM, praticamente 8-4, capito? Perché facevo appunto, usavo anche i microfoni a 4 io con le radio HF, e quindi ho collegato il connettore da 4 a 8 e ho visto che il 60 non me lo mantiene. A parte che ci vuole la batteria, non devo stare lì a mettere batteria dentro, però ho provato ad alimentarlo e fischia un bel, e allora ho detto adesso provo il 50 che è normale, ho provato il 50 con il mic gain al massimo e la radio va benissimo, capito? Sono adattatori fatti bene, non sono adattatori, sono spezzoni di cavi schermati, fatti bene, no a culo di scimmia, e quindi non lo riceve bene la radio, capito? Lì neanche con l'adattatore già lo riceve. Non va bene, entra lo spinotto perché è come quello della Kenwood, solo che la Kenwood non ha c'ha un filo in meno, quello della Kenwood praticamente non ha la ricezione. Ho trovato ricezione, la portante ho trovato, però la radio non esce. Voglio vedere cosa dice, combinato meglio. Cazzo, incasinata a me. Fabrizio, non verrà deciso, ne manco Fabrizio, non lo so. Non c'è riuscito ad attaccare l'MV4, gli ho dato l'apparecchio e il coso, e il microfono, nulla. E Antonello per riuscito, buon avanti Antonello. Vabbè, allora cosa le dite? Come sto uscendo? L'MB43, cioè come lo chiamate a me? L'MB43 e 93, come va? Bene o male? questo è uno schiaffo morale, Natali. Vabbè, però la radio lascia un po' a desiderare. Prova a alzarlo. È una malezza, Emi, quindi così non va a me, non hai capito? È una malezzone, caro mio, è una malezzone, non c'è altro da fare, non c'è manco l'LC dentro. Ho controllato io stasera e non è l'LC nuda. Quindi l'unica cosa è così. Però esce bene, la verità esce bene. C'è una bella amplificazione, vabbè. Se sollevo il volume mi ascolto parecchio, vabbè, tipo del microfono, così è malezza, così è a 1, 2, 3, 4, 5, 6, e così è malezzone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non so se vabbè, se c'è altra cosa da regolare qui, buh. Beh, solino, ciucca ciù, ciucca ciù. Cosa? trova la batteria, se non si la scarica. Ma sono la scarica? No, la batteria che non si scarica, ho detto, sta facendo un passo per quello. Già carica la batteria, l'ho messa nuova io, quella che c'era là dentro la scarica. Cioè va bene comunque, più di così non può uscire questa malacchina. Se avessi avuto lo schema elettrico e sapere dove era l'LC l'avrei sollevato, ma siccome non c'è schema elettrico qui di casino andare così, ci sono due trimmer, uno è, l'ho trovato, è la regolazione di eccezione del LED, l'altro invece è quello della trasmissione, capito? Però altri trimmer non ce n'è, ho guardato e ho veduto di qua. Purtroppo è così, stavo facendo la regolazione stamattina ma non ho... Tutto non va. Quindi magari con la cintura è diverso. Ma infatti mi hai preso la parola alla bocca, però se è natalino è più forte. Vabbè, sicuramente è più forte di quello che stai usando tu a natalino questo. Vabbè, canto miliardi, cantonello, lo proveremo, cosa vuoi ti dica? A me mi sembra più forte. A me sembra più forte rispetto a quella normale che usi tu, lui. Ma con la tua voce va meglio. Come lo senti tu già? Ah, io lo sento discretamente, non è fortissimo la radio, ma già lo sento discretamente. E allora, proviamo. Prova che ti prova. Allora, bisogna provare. La voce mia quella che già lo sai, fa schifo. Io sono sicuro che se attacco in saletta questo palacchino qua c'è un demonio. L'MBQ4 lo sai che non pompa nulla, neanche nell'87 pompa, quindi figurati tu. Oh, la verità è che i microfoni di questo palacchino qui, per carità, un altoparlante sono. Un altoparlante da 150 ohm, cioè dentro faceva proprio schifo. Ne ho provato un altro alla 8, non vale nulla, ma per adesso sta uscendo bene. Poi, guarda, la differenza, guarda. Si sente il televisore in camera di sicuro, quindi vuol dire che sta uscendo di amplificazione il microfono. Davvero? Prova così, cosa vi dica, non lo so. Per me stai andando molto meglio comunque, va bene. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Marcella. Ciao Pompolio, cosa stai provando? Il microfono natalino stava sistemando Antonello. Il microfono natalino? Ah, il più 4? No, quello normale, è -93. Beh, va? Sembra di sì. Così sembra. Prova Antonello. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quello è bene l'M300, più che questo è -93. Cava la cava. Già va bene, ho voglia. Meglio di prima già è. Ma è tutta maletta quella come amplificazione. Non c'è trimmer di LC, non c'è niente in questo baracchino, capito? C'è solo il trimmer dello Smith in trasmissione e ricezione e basta. Come altro? No, ma dico, il microfono c'ha qualche cosa di aumentare, abbassare, no? Sì, c'è lo slider davanti, a manetta. La batteria carica? Via. Sì, non è questa grande cosa, va bene, sulla radio normale così va bene, no? Vabbè, la voce mia è quella che mi tiene presente, è quello. Quindi, se ne attacco il saletta qui, vedrai come truppa. Ma ascolta, la bocca attaccata c'è al microfono, lontano sì. 5 centimetri da microfono, se attacco la bocca alla voce, così guarda, fa schifo fa. Oh, ci vediamo. Via. Ho migliorato qualcosa? Scrivi sempre bene tu, Lu. Sempre Santiago 9, Radio 5. Ma anche adesso? Sì, l'ho messo in 9. Cioè, quasi lo stesso segnale di quando sei a casa tua. Io addirittura? No, aspetta un attimino, Qua c'era il filo in punta attaccato. Prova qua, Luca. Guarda un po', Cla, c'era il filo attaccato in punta, l'ho risaldato. E prendi tu la carica, che cosa vedo? Santiago 8, quasi 9, sì. Tuo segnale. Ma lei ce l'ha in me, ciao Luca, ciao Massimiliano. Prima è una provvisoria da mettere lì, simile a quella, una mezza onda, quello che è. Quasi Santiago 9 stia arrivando qua. Mentre l'altro giorno arrivavi Santiago 5, anzi 4. Oh, ecco Ballione, guarda che sta mandando un video. No, ma se arriva qua così, quasi 9, da te è più vicino anche, quindi 9 è un ottimo segnale. Ma arrivava sempre bene, a me mi è sempre arrivato tra l'8 e l'8 e mezzo, e così mi arriva. L'altra volta invece stava modulando, l'ha detto, ma perché sei così basso? E non lo so, che cosa aveva? Era Santiago 3. Ok, là, scusa, io lo sapevo neanche che c'era Gianni, lo saluto, buon Querix allora, ok? Non so ancora chi c'è, perché... Fuscendino, quindi andato, ecco, aspetta, ti ho mi sta con questo. Niente, claro, ero sul 20 che stavo dando qualche informazione a Franco, c'era Roberto e Riccardo, poi sono passato qua, va. Ho capito, già lo so, sono sul 20. Io ero qua con Natalino, con Gianni. Va bene. C'è Natalino e Antonello, poi non so altro chi c'è, la verità, perché io ho risposto a Antonello. Avanti Antonello. Adesso questo originale, quello dato dalla fabbrica, quindi la differenza c'è, la voglia che c'è. Andrà bene bene, adesso mi riavvito la vita, come si chiama, forse Natalino si vuole fare la passeggiata in macchina, perché a me viene male a scendere. Non c'è tram, se li beccano, mi tombano. C'è la radio vera, il cappucci. Esatto, fetta radio, metti l'altro microfono, metti. Ma cosa beccano che si può uscire? Ma cosa siete di treni? Ma vai a ritirarti la radio, Antalino, ma cosa siete di treni? Vai a ritirarti la radio, tranquillo, se non ti ferma nessuno. E il fatto che ce l'ho in punta di casino la macchina, il microfono, la radio ce l'ha uguale, Antonella, la mia. Ah, ecco perché, infatti, ci trovo così modulando, Antalino. Ce l'ho uguale, e allora il microfono ti riprende. Il microfono ti riprende, già va bene. Cosa c'ha quell'MP4 che c'ho io? Non ti busti qua un microfono, gli su 0 lampi. Ti buschi un Savelta, non è anche venuto a 50 euro, Natalino. Buscami lo tu. Subito lo piglio, cosa detto, me lo posso attaccare a Antonello, immediatamente. Prego! Sì, un attimo, ti metto in contatto con Ciro. C'è la spedizione, giustamente, in più. Non è qua, no. Vabbè, non c'è problema, miglia tutto, ti do pure di là e via. E lo fai arrivare a me. Adesso lo vedo un po', lo contatto, vedo un po' se sarà venduto. Avanti il break. Sarò io, Massimiliano. Ciao, Massimiliano, non so chi altro ci sia. Natalino, mi sa che ho sentito, e Antonello Portoni sta facendo le prove. Natalino, mi ascolti, via, quella PR. Ti ascolto, bra. Break le break. Va bene, dai, io rimango in ascolto. Ok, ciao, fra, ben ascoltato. C'è un altro break e buon proseguo a tutti. Pesce, cugini, avanti il break. Ehi, ciao Claudio, noi eravamo sul 20, c'era, prima non c'era nessuno, sul 10, anzi prima c'era gente, poi sono andati via quando sono, mi sono allontanato io, adesso eravamo sul 20, ho sentito a Franco, sta facendo prove, poi c'era Riccardino, è entrato e stiamo rientrando qua sul 10. Massimiliano, ci sei ancora? Sì, sono qua. Poi chi c'è? Natalino, ci sei? Sì, già ci sono. Franco, telefonami un attimo. Ciao Claudio, buonasera. Sì, avanti Ricca. Claudio, ancora ci sei? Claudio, vabbè, sei spostato Claudio. Ok, no, Natalino e Franco stanno, come si chiama? Telefonando, non lo so. Vai Massimiliano. Spesso è quello che sto contattando, lo sto qua per un microfono, aspetta. Avanti il break, chi sei? Chi sei? Aspetta, parla più lentamente perché sei in mezzo al QRM. Avanti, chi sei? Non ho capito. Io sono. Chi sei? Giuseppe. Oh, Giuseppe, tu sei? Oh, ha detto, io sono, ragazzi. Aspetta, che c'è, mi sembra Giuseppe, però è basso. Giuseppe, tu sei, avanti. Boh, vabbè, dai, se vuoi entrare, entri, non lo so. Ok, dimmi Riccardo. Allora, abitava, non abita più, c'è la casa vicino alla zona tua, dai, non so esattamente dove abiti tu, però la direzione è questa. Ma se vediamo c'è ancora? Ah no, forse stava facendo qualcosa al microfono. Allora cedo io, tu, Natalino che sta telefonando a Franco, Massimiliano che sta telefonando, Claudio era di passaggio, stava chiudendo e poi non so se ci sia qualche un altro. Adesso c'era uno che voleva entrare, ha chiesto il break, o l'ho fatto entrare però non è entrato. Ok, rifacciamolo un altro tentativo, avanti se vuoi entrare sul 10. Oh, scusate. Ciao lui, avanti. Sono aumentato? Vuoi un po'? No, 9, quasi 9 più 10, anche prima eri più o meno così. Rispetto all'altro giorno di molto si è aumentato. Claudio, guarda un po' da te, si è aumentato, perché mi sto accorgendo che i segnali voci sono più alti. Ma Claudio è andato via. Chi ci è rimasto? Massimiliano? Massimiliano, un microfono, stava guardando Natalino e Coso e Franco, si stavano telefonando, è rimasto Riccardino e poi c'è uno che stava chiamando, mi sembrava Giuseppe, però poi non ha risposto, l'ho rilanciato e non mi ha risposto. Chi è che c'è oltre a Roberto? Sempre 9 sì, comunque qua. Cosa? Sempre 9 Massimiliano? E io l'ho dato Coso, l'ho scritto adesso, il Sanelta l'ha dato, 50 euro più la spedizione. Adesso sta vendendo quella Veron, quell'antenna 5 ottavi, quella senza, no, con i 3 radialini. E chi? Questo Ciro Celentano, 50 euro. Ma dove? E mi sembra che lui sia di Napoli. Ah, non è qua in Sardegna? No. Sì, ma adesso vediamo, dai, un attimo, devo salire sul tetto a vedere come siamo messi e poi si agisce, dai. Se non vedo non posso fare niente. Però mi sa che l'attacco al parapetto, diciamo, nel tetto, là, cioè il muretto, là, lì, la ganciolina, metto lì le staffe, tanto un'antenna leggera, voglia che la regge. Un'antenna cosa? Come? Oh, ma si vedeva, un'antenna, vediamo, non vedere e valutare, là, non, se non vado il tetto non so cosa fare. Ma siamo noi le ghisa direttamente. No, oh, cosa ghisa? Che l'hai fatta così, mi? Una cosa veloce. C'è l'attacco, c'era tutto il capo ossidato sopra. Ma che antenna è Luca poi? Una radiale di manto qua. Sta andando bene Luca, cosa vuoi dire? Non so, amica, cioè voglio sentire anche le altre persone, non solo voi, Ma tu stai parlando da questa posizione, non a casa tua? Non sono a casa, Robe, sono qua alla 25. Quello che ti stavo dicendo, aspetta, chi è che chiama? Avanti, chiamano e poi non entra. Ok, Rica, tu riprendi. Io passo un secondo in quel Rix, riprendo fra un po'. Eia, cosa hai detto Rica? Non ho capito. Hai sentito? A me rispetto a ieri ha migliorato tantissimo Luca, perché ieri era un po', però c'era problemi di connessione e basta, adesso arriva a 9 più 5, buono segnale. Che avanti? Chi sei? Entra, se vuoi entrare, se no rimane in disparte, cosa vuoi ti dica? Ti chiamiamo un paio di volte, non rilassi, non rientri. Va bene, dai. Natali, ci sei? Franco, Luda, chi è rimasto? Luca è uscito, ci sei ancora? Sì, sono qua Roberto, aspetta, stavo attaccato, sono andatore, mi senti? Ehi, hanno mai detto niente del microfono Luca, l'hai risolto? No, sono qua, lunedì lo faccio. Ah, pensavo, su un MB40 comunque lo devi montare. Sì, su originale. Voglio vedere, voglio fare una prova se... Ah, ecco, giallo, azzurro. Cosa vuol dire vuoto? No, vuoto è impossibile, sono 5 fili Robert. Cioè, 6 fili. Il sesto non è collegato, non è connesso il sesto. Ne utilizza solo 5 di fili. Quello che io ne ha 6. Sì, ma il sesto, quello centrale, che mi sembra, per il primo momento ho detto questa deve essere la massa, invece no, non è collegato, c'è un tappo, cioè sembra che sia collegato, gli hanno messo una specie di tubicino trasparente, non è collegato il numero 6, quello centrale. Ma io ne ho 6 fili. E utilizza solo 5, il sesto non lo utilizzo. Ne ha collegati solo 5, tutti, dall'1 al 5, il centrale, proprio al centro di connettore, quello lì è scollegato, e gli hanno messo un isolatore, mettici un pezzettino di tubo o un autorestringente, glielo infili sopra così non interferisce con gli altri, ossia che si tocchino le cose. Ho capito. Avanti Massimiliano. Ecco Rex Massimiliano. Beh, poca gente oggi, poco movimento, dai, considerando che è sabato, che ora sono le 6:10, dai. C'era quello che stava provando a entrare, Luca, non so se l'hai sentito, non ho capito chi era, Chi è questo? Adelante se sei spagnolo o avanti se sei italiano, non ho capito chi sei. Vabbè. Chi sei? Roberto. Ah, Roberto, no, ma c'era un altro più basso di te, Roberto. Tu già arrivi bene. Un altro 7. Roberto. Giuseppe, Non è Giuseppe, è Roberto D'Alghero. Ti ascolto, Roberto, tu non mi cupi. Giuseppe, sì. Tappa. Ancora non avete capito che il calzolaio che vi piglia di Baruguru in trendy mica è spagnolo. ti ho rilanciato Giuseppe un paio di volte e non mi ha risposto. No, è quello là, quello che mette la portante. Io sono sempre in ascolto, io sono entrato adesso per avvisarvi che chi su Vepilè di Marugù. Infatti già è entrato, l'hai visto che è entrato, l'ho rilanciato un paio di volte, ma ho sentito Roberto D'Alghero, aspettate un attimino, Roberto, sì, l'ho sentito un attimino, mi ha chiamato. Ok, ripetitela Giuseppe. Quello è quello che mette la portante che sta disturbando, bisogna scendere a staccargliene, a stracciargliene l'antenna, quello è l'ex calzolaio. Non lo conosco, poi arriva talmente basso qua, per cui a me fastidio non me ne dà, a meno che non lo dà a qualcuno di giù di loro, assolutamente un segnale di 7 qua. Tu stai lì, stai arrivando quasi 9. Sì, ma manca a me da fastidio, da fastidio solo che quando non sa cosa fare deve aprire la finestra e si rampa. Purtroppo c'è gente che si diverte così, e cosa ci puoi fare? Vabbè che non vuoi ammazzare, come si dice, si diverte, alla fine si stanca, cosa vuoi che ti dica? Se vuole entrare può anche entrare, con educazione naturalmente, non mandiamo via nessuno. Oh, prego. Vai Natale. Non vi è entrato, era al telefono, capito? Natale, ma questo poco fa ce l'aveva Antonello Pompogno questo baracchino. No, Antonello Pompogno c'ha il suo che è uguale a questo. Ah, io ho convinto che fosse col tuo, stava modificando ma non riusciva a farlo uscire quel baracchino, ha messo capsule contro capsule. Ha detto metti un microfono amplificato, era un pazzillo quello originale, ma male male stava uscendo. E questi microfoni non ne accettano, te lo so dire, non c'è neanche il trimmer per aumentare la LC. Poi se tu aumenti la LC ti togli l'omologazione, io questo non lo tocco assolutamente, perché mi serve, perché devono venire a controllarmi sicuramente. No, ma tu lasci tutto normale, ma se metti io parlo mettere un microfono amplificato non è che stai modificando niente, lasci tutto originale e gli aumenti un po' la radio e boom. Ma Antonello,